Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali, i mensili italiani e stranieri. Cominciamo con un consiglio di lettura più leggero, ma non così frivolo come potrebbe sembrare. Non so quanti di voi conoscono così bene la storia dell'arte da poter immaginare che esiste un ritratto in cui si vede un giubbotto di jeans, e questo direte, beh, non è particolarmente interessante. No, se non fosse che il ritratto è del 1600. Quindi esiste un ritratto di Piccolo Mendicante, il pittore anonimo, il XVII secolo. La giacca logora del bambino è fatta di una stoffa blu che ricorda esattamente i giubbotti di jeans dei nostri anni 80, più o meno come taglio, come foggia. Questo si apprende da Donna Moderna. Donna Moderna ha dedicato questa settimana due pagine ai jeans, dice, i jeans che hanno fatto la storia del la moda e anche altre storie. Perché? Perché c'è una mostra a Parigi che celebra le origini del jeans con i quadri del 600, e il tessuto più fashion ha infatti un DNA di 5 secoli, sebbene non li dimostri, ed è passato attraverso molte generazioni e mille trasformazioni. Ha lasciato il segno nell'evoluzione dei costumi e dello stile. Allora vi rimando poi a Donna Moderna per tutti i dettagli di questi cambiamenti, perché i jeans appunto hanno fatto la storia, sì, della moda, ma anche del western, hanno fatto la storia del cinema, hanno fatto la storia degli stilisti, la storia dei fotografi famosi, delle griff, dei creativi. Ma il primo punto da cui hanno scelto di partire è proprio questo dell'arte, la storia dell'arte del 600. Allora, questo ritratto di Piccolo Mendicante con questa stoffa, questo giubbotto di jeans, ne hanno chiesto a un mercante d'arte, e il mercante d'arte si chiama Maurizio Canesso, dice che già gli indumenti blu in sargia esistevano già dal XIV secolo. Questo artista anonimo, rimasto anonimo, che ritrae questo piccolo mendicante, è stato il primo a rappresentare questi indumenti nelle scene di vita popolare di fine 600. Come forse qualcuno già sa, la parola jeans indicava all'epoca la provenienza del fustagno che partiva dai porti di Genova, jeans, e quindi da Genova poi la tela ginua o jeans come adesso. Denim invece, che è l'altro termine normalmente utilizzato, denim si riferisce a una stoffa simile che però veniva prodotta a Nantes. Questo è il motivo per cui i due termini siano passati poi attraverso i secoli, siano arrivati fino a noi. Questo il contributo sui jeans, lo trovate su Donna Moderna questa settimana. E allora, dal 1600 torniamo ai tempi moderni, restiamo su un'altra testata femminile, perché parliamo di Vanity Fair. Vanity Fair ci informa che c'è un movimento per ridurre la lunghezza delle mail. Credo che in molti siamo favorevoli a questo movimento, anzi auspichiamo che si diffonda molto rapidamente, perché effettivamente le mail sono una gran comodità, ma talvolta impegnano parecchio. Quanto? Lo spiega Ferdinando Cottugno proprio su Vanity Fair. Dicono che, secondo un report del 2010, l'impiegato medio di una grande azienda scrive 36 email al giorno, ne deve leggere almeno 61. Questo escludendo il cosiddetto spamming, cioè quelle mail che arrivano che contengono offerte balzane di prodotti di qualsiasi tipo, oppure che cercano di carpire i dati, in questo caso si chiama del phishing appunto, i nostri dati bancari, i nostri dati personali. Per smaltire tutta questa corrispondenza digitale ci vogliono almeno 13 ore in tutta una settimana, il che fa un'ora per circa 7 mail. Allora, come si combatte questo che alla fine diventa uno spreco di tempo, indubbiamente? Con un movimento che si chiama delle tre frasi. Combattono contro il sovraccarico di email, combattono contro le divagazioni, i chiarimenti non richiesti, i saluti troppo lunghi, le firme interminabili. Allora, l'ideale è una comunicazione in stile di SMS con un limite di testo prefissato nelle mail che costringa chi scrive a tagliare tutti i dettagli inutili. Il movimento è di origine americana, il nome è in inglese, si chiama Free Sentences. Per trovarlo su internet dovete digitare free, cioè il numero 3, punto sentence, scritto però senza la e finale, punto es, e questo movimento combatte appunto contro il sovraccarico da email. Per fare propaganda, questo movimento fa sì che ogni email free sentencing si chiuda con una postilla. Vuoi sapere perché sono stato così breve? Vai su questo link e così scoprirai il movimento della riduzione alle tre frasi. Tra l'altro, il calcolo secondo i promotori è che se ci riducessimo tutti a tre frasi per ogni email, impegneremmo solo 2 ore alla settimana per leggere e scrivere le mail, il che sarebbe indubbiamente un vantaggio. E allora, tutti questi calcoli che vi ho presentato, appunto fatti sulle mail, sulla corrispondenza elettronica che ci impegna per così tante ore, chiaramente sono possibili perché condividiamo almeno un pochino di aritmetica, se non proprio di matematica. Ma dovete sapere, l'ho letto su Vita di questa settimana, che ci sono delle grosse difficoltà nel trovare insegnanti di matematica nelle nostre scuole, il che si aggiungerebbe poi alla abituale cattiva notizia che sentiamo spesso, che noi italiani sempre indietro nelle classifiche internazionali dell'apprendimento della matematica. Comunque, Daniele Biella scrive su Vita: povera matematica, non la vuole insegnare più nessuno, o meglio, non si trova chi la insegni. È quello che avviene con sempre maggiore frequenza nella scuola media italiana. È una vera epidemia che in questo inizio di anno scolastico ha raggiunto dei tempi record, con cattedre vuote in attesa di assegnazione anche 3 settimane dopo l'inizio della scuola e con conseguente disagio per migliaia di studenti. Avvisa sempre Vita che la mancanza di professori è avvertita più al nord, e quindi le prime settimane, insomma, sono andate come si è potuto. Come si può rimediare? Questo è un po' più difficile da dire, perché si tratta di far quadrare una serie di esigenze non semplicissime. Ci vuole probabilmente della matematica di livello decisamente alto per riuscire a combinare la necessità di risparmi dal punto di vista della spesa pubblica con anche le necessità dell'istruzione. Però questo ci applicheremo in un altro momento. Vediamo cosa spiega Daniele Biella. Dice: il caso di Milano e provincia fa scuola, su 173 posti disponibili al 1 settembre 2010 sono rimasti 95 posti vacanti a scuola iniziata. L'indicazione viene dalla CISL Scuola di Milano. Tra l'altro, molti poi degli iscritti in graduatoria hanno rifiutato il posto perché il ritardo nelle nomine ha portato proprio questi iscritti a trovare altre assegnazioni che sono state accettate per avere appunto la sicurezza di insegnare. Ma il problema sarà sempre più grave, perché risulta in diminuzione progressiva il numero di chi aspira a insegnare matematica e altre materie scientifiche. Perché succede questo? Perché un laureato in queste materie ha solitamente una maggiore gamma di opportunità e quindi può aspirare a un impiego che è indubbiamente più sicuro e appagante a livello remunerativo. La scuola diventa un po' l'ultima scelta. Ci sono però poi dei casi particolari. C'è una storia che viene proprio presentata da Vita: un signore di 58 anni, 8 anni fa organizzava eventi per l'azienda dove lavorava, e da settembre invece ha iniziato a insegnare matematica alle scuole medie. Prima l'aveva fatto per il liceo. Dice: il mondo aziendale mi ha espulso quando avevo 50 anni, così per mantenere la mia famiglia sono tornato a insegnare, e avevo già insegnato subito dopo la laurea in matematica e sono tornato appunto a insegnare alle medie. Lui stesso confessa di fare un po' di fatica a prendere il ritmo con questo nuovo lavoro, relativamente nuovo lavoro per lui. La vera vittima di questa situazione, però, è, torno all'articolo di Daniele Biella, secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Matematica, si chiama Walter Maraschini, la vera vittima di questa situazione è però la continuità didattica. Perché? Perché a rimetterci sono poi gli alunni che sono carenti di standard univoci, quindi escono un po' frastornati dalle diverse impostazioni che ogni professore sceglie di dare alla materia. Infatti alle medie si può insegnare matematica anche con altre lauree, come ad esempio la biologia o la geologia. Però la mancanza di formazione poi può incidere sulla qualità, e naturalmente poi qui entrano in gioco anche i fattori personali legati al singolo docente. Quindi le difficoltà a trovare insegnanti di matematica sembrano colpire appunto soprattutto il nord, secondo quanto riferisce Vita questa settimana in edicola. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Rientrando dalle informazioni sul traffico, mi viene in mente un articolo che ho visto sul Venerdì, che avete trovato con Repubblica. Si tratta della possibilità di prendere delle multe, in realtà destinate a cittadini francesi. Perché? Perché la Francia ha modificato di recente le sue targhe, ha adottato delle targhe, un sistema di targatura che è molto simile al nostro, con due lettere, tre numeri, due lettere. Naturalmente ci sono delle distinzioni. I caratteri utilizzati non sono esattamente gli stessi, però si somigliano molto, le lettere sono sempre nere su fondo bianco e così via. Quindi cosa sta succedendo, avverte il Venerdì? Che il nuovo sistema di matricolazione di queste auto è troppo simile e basta una lettura poco attenta, specialmente con le foto dall'autovelox, perché una sanzione francese arrivi per sbaglio da noi. La questione tra l'altro sta finendo a Bruxelles. La cosa è particolarmente avvertita, segnala Riccardo Bianchi, sulla costa ligure. Centinaia di multe per infrazione al codice della strada, scrive sul Venerdì, sono quelle che si stanno vedendo recapitare alcuni automobilisti italiani che però in Liguria non hanno messo piede. La stessa cosa succede in Francia, ci sono automobilisti francesi che ricevono sanzioni per eccesso di velocità in Costa Azzurra, ma loro non ci sono assolutamente andati in Costa Azzurra. Allora, questo è la premessa. Quello che sta succedendo è che appunto si fa confusione tra targhe francesi e targhe italiane, i sistemi informatici dei due paesi non riconoscono le differenze, quindi inviano contravvenzioni un po', diciamo, verrebbe da dire a casaccio. È stata sollevata anche una interrogazione al Parlamento europeo e qui ci sono state anche delle richieste per creare un unico sistema di immatricolazione europeo che consentirebbe quindi di evitare questo tipo di disguidi. Un progetto del genere, avverte Riccardo Bianchi, esiste già, è fermo però tra i banchi di Bruxelles da tempo. Aspettando una soluzione per adesso non si può fare altro che sperare in una precisione maggiore degli agenti incaricati di controllare le foto di autovelox, delle porte telematiche o dei telepass, e in questo modo questo sembra essere l'unico modo per scongiurare questa confusione tra targhe italiane e targhe francesi che sta producendo appunto delle contravvenzioni a casaccio. Cambiamo completamente argomento. Su diversi settimanali in questi giorni si parla di un film in particolare, Benvenuti al Sud. Benvenuti al Sud probabilmente lo avete già visto reclamizzato, ne parla ad esempio Sorrisi e Canzoni. Si tratta di un film con Claudio Bisio che racconta appunto le vicissitudini di un settentrionale che viene mandato al Sud per lavoro e quindi arriva con un carico di pregiudizi molto, molto consistente, e poi naturalmente insomma si adatta, anzi si integra bene nell'ambiente in cui è stato mandato a lavorare. Ad esempio, in una intervista realizzata da Barbara Mosconi su Sorrisi e Canzoni, Bisio dice: hanno definito Benvenuti al Sud una commedia federalista. Il film è uscito nelle sale proprio ieri e quindi lo trovate proprio da pochissimo in circolazione. Dice Bisio: non è un film a tema, cioè dice sostanzialmente questo film che dividersi è da stupidi, vuole essere un inno all'unità d'Italia, allo stesso tempo anche un inno alla diversità, alla bellezza della diversità. E via via poi si prosegue, ma non vi voglio naturalmente togliere il gusto anche di andare a vedere questo film. Mi viene in mente perché da pochi giorni, cioè da mercoledì scorso, proprio di Unità d'Italia stiamo parlando anche con il Sole 24 Ore, perché è in edicola il primo volume della Storia d'Italia, una iniziativa proprio realizzata in occasione del 150° anniversario dell'Unità. Ci sono 12 uscite, la prima è in edicola da mercoledì scorso con il Sole 24 Ore, dedicata alle premesse dell'Unità. Sono una serie appunto di opere per la terza e per il Sole 24 Ore dedicate al 150°. Restiamo sul cinema, perché ancora da Sorrisi in realtà vi devo segnalare, forse per qualche genitore sarebbe più corretto usare il verbo vi devo avvertire, che quella prossima settimana, il 5, il 6 e il 7 ottobre, c'è il film su Il mondo di Patty. Per chi non sapesse cos'è Il mondo di Patty, è una serie televisiva di grande successo, specialmente tra le teenager, ma anche i teenager. Un musical, ne hanno tratto un musical. E che arriva proprio nelle sale italiane. Le ragazzine che volessero andare a vedere questo musical sono invitate a vestirsi secondo i due gruppi che caratterizzano appunto il telefilm. Le ragazze del telefilm sono divise in due gruppi perché si narrano appunto le vicende di una scuola e i due gruppi sono l'una quello delle popolari, l'altra quello delle divine. Lo spettacolo dal 5 al 7 ottobre viene proiettato in 175 sale cinematografiche italiane. Se volete la lista completa, la trovate sul sito www.nexodigital.it. Nexo Digital con la X naturalmente. Nei panni di Patty, che poi è la protagonista, c'è l'attrice argentina Laura Esquivel, che è proprio la protagonista anche della serie televisiva Sorrisi. Sorrisi Canzoni TV ha realizzato anche una intervista a questa sedicenne che è famosa ormai in tutto il mondo grazie a questa serie TV. E in questa intervista apprendo tra l'altro che, come dice la stessa Laura Esquivel, ha una mamma italiana, lei ha anche una cittadinanza, ha anche la cittadinanza italiana, quindi c'è, come dire, una radice italiana nella protagonista di Il mondo di Patty dal 5 al 7 ottobre nelle sale, anche nelle sale italiane. Di tutt'altro tenore, decisamente, molto meno scanzonato, i film che si stanno preparando, che stanno uscendo su Facebook, il social network che è diventato un colosso. Ne parla il Nouvel Observateur dalla Francia, che ci segnala come stanno arrivando due film. Uno praticamente prossimo al debutto proprio in Francia, si chiama il Social Network, sarà nelle sale francesi dal 13 di ottobre. Ed è un po' il ritratto di Zuckerberg, cioè il fondatore del social network, un ritratto che non è stato molto, come dire, condiviso dallo stesso Zuckerberg perché sembra dipingerlo in un modo abbastanza determinato, forse un po' troppo determinato. C'è però un altro film che si chiamerà Catfish, un documentario, che dovrebbe uscire settimana prossima negli Stati Uniti e che parla di Facebook, però partendo invece dalla storia di un giovane fotografo newyorkese e anche questo un film abbastanza critico su Facebook, come se tutto insomma questo successo di Facebook che ha modificato così pesantemente anche, no, alcune abitudini di vita, alcune abitudini delle nostre conoscenze, poi avesse trovato un ambiente ostile proprio nella cinematografia. Sono cose che vedremo tra la prossima settimana e le prossime settimane proprio su Facebook. E allora, con questa citazione, con questo avviso per i film che vedremo dedicati al social network probabilmente più famoso nel mondo, si conclude anche questa puntata di Magazine 24. Grazie, grazie molte a Paolo Corleoni, anche questa domenica mattina in regia con me. Grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete risentire questo programma, volete informazioni sulla nostra radio, su Radio 24, potete come sempre collegarvi al nostro sito www.radio24.it. E Magazine 24 vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buona domenica a tutti.